Time Out di Luca Mastrantonio. Ultime notizie dal box office. Vanno fortissimo le storie dei ghostwriter, gli scrittori che vivono all'ombra di uomini politici o romanzieri di successo. In Francia c'è stato L'altro Dumas con Depardieu, che racconta lo scrittore meticcio che viveva all'ombra del grande romanziere francese. Roman Polanski ha portato sul grande schermo Ghostwriter di Harry, l'uomo nell'ombra. E adesso, notizia di questi giorni, Charlize Theron vestirà i panni di una scrittrice fantasma, una ghostwriter di romanzi di successo per ragazzi che vuole iniziare a far carriera da sola. E in Italia? In Italia ci sono i ghostwriter? Ci sono gli scrittori fantasma? E se ci sono, perché non parlano? Benvenuti a Time Out, io sono Luca Mastrantonio e come ogni sabato e domenica di quest'estate di Radio 24 alle 9:30 vi accompagno in una pausa di riflessione. Oggi ci chiederemo chi si cela dietro i grandi politici, chi vive nell'ombra, chi scrive romanzi di successo, chi scrive quindi nell'ombra di qualcun altro e cosa prova? Cosa prova a vedere il proprio discorso applaudito da milioni di persone ma con la faccia di un altro e magari un romanzo di successo entrare in classifica con la firma e forse anche un conto in banca di un altro. Ma io non so praticamente niente di politica. L'hai votato, no? Adam Lang, certo. Tutti hanno votato per lui. Lo hanno pagato 10 milioni di dollari per questa biografia, ma gli serve un ghostwriter. Si tratta di un'occasione unica per te. Salve, lei chi è? Sono la sua ombra. Il manoscritto non può uscire dalla stanza, non può essere copiato, sarebbe un rischio per la sicurezza. Allora, come vogliamo procedere? Io la intervisto e rendo le sue risposte in prosa. Che ne dice di iniziare? Tu lavori per un assassino! L'altro ghostwriter non ha retto alla pressione. Non mi avevi detto che c'era un altro ghostwriter? E appunto questo è Roman Polanski, L'uomo nell'ombra. L'uomo nell'ombra, tratto ispirato da un romanzo di Harris che si chiama appunto Ghostwriter. Termine inglese, politicamente corretto, mentre prima appunto si usava un termine decisamente politicamente scorretto, un negro. Perché? Perché erano di colore, erano spesso di colore, figli delle venivano dalle colonie, in Francia gli intellettuali, gli scrittori che scrivevano all'ombra di altri, addirittura anche di grandissimi autori, di grandissimi marchi come Alexandre Dumas. Yes we can repair this world. Yes we can. Si può fare! Yes we can, ok, grazie. Si se può! Si se può. Yes we can, una frase, un marchio di fabbrica di Obama, no, di un ragazzo, un ghostwriter che tra le tante cose si è inventato questo slogan che ha fatto vincere Obama. Sembrava I Have a Dream di Martin Luther King e invece non è di Obama, forse è ispirato a Frankenstein Jr., forse Veltroni si è ispirato a Obama o a Frankenstein Jr., non lo sappiamo. Dietro un discorso di un grande politico spesso si cela uno scrittore in erba, un giovane poeta, un giovane scrittore che ha bisogno di fare soldi. Ma siamo in collegamento con un uomo che ha vissuto, uno scrittore che ha vissuto in un'ombra piuttosto ingombrante, quella di Walter Veltroni, è lo scrittore Ugo Riccarelli che ha vinto il premio Strega nel 2004. Buongiorno Riccarelli. Buongiorno a voi. E ci racconti come si vive all'ombra di un uomo politico come Veltroni, come ha iniziata questa collaborazione, se c'è stata una proposta indecente come quella del film di Polanski di 10 milioni di dollari o invece era forse un po' più sindacato, magari. No, la mia storia è molto più semplice perché io da anni, prima di collaborare con Veltroni, lavoravo negli uffici stampa al comune di Pisa, sono un istituzionale in questo senso, ho collaborato con due sindaci a Pisa. E poi l'amicizia con Veltroni, la conoscenza con lui è avvenuta proprio tramite la mia attività di scrittore, perché quando lui era ministro della cultura mi ha telefonato per il mio libro su Schulz e di lì è nata una conoscenza e quando lui è diventato sindaco di Roma mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto, visto che anche a me mi interessava venire a Roma, collaborare con lui in Campidoglio. Si trattava di un lavoro istituzionale come quello precedente, quindi collaborare con l'attività, no, di un sindaco in una città così, certo, importante, quindi una grossa mole di lavoro alle spalle di un sindaco. E di quale discorso, di quale intervento va particolarmente fiero e quale invece ricorda che magari non ha funzionato come sperava? Ma sa, sicuramente quello che più mi ha colpito è un po' sempre la prima volta, perché era da poco che ero arrivato in Campidoglio, si trattava di scrivere un discorso o comunque di collaborare per la scrittura di un intervento di un'udienza papale, c'era Giovanni Paolo II, quindi il Sindaco di Roma ha sempre dei contatti di alto livello, quindi nella mia tra virgolette carriera ho collaborato con il Sindaco scrivendo un po', diciamo, personaggio palmarès, se vogliamo dire così, assolutamente interessante. Mi preme dire però che non era tutto lavoro mio, perché il grosso del lavoro veniva diviso tra due persone, l'altra persona Novelli. Notoria era Claudio Novelli, che si occupava più della parte politico-storica, io invece della parte più culturale. Veltroni è un campione di prefazioni, quindi ovviamente gli davate una mano. Ce n'è una che proprio le ha detto di questo argomento non mi interessava nulla e me ne sono dovuto occupare. Ovviamente scrivere per conto di un sindaco, di un politico, eccetera, è un mestiere, quindi non è che tutte le cose che si fanno appartengono alla sfera o al gusto personale. Si aiuta, e questo direi che è bene che per chiarire col pubblico che ascolta. Bisogna immaginare la quantità di lavoro che viene richiesta, no, a una persona di quel livello, a 360 gradi. Ma bisogna anche passare, immagino, molto tempo, bisogna essenzialmente vivere, cioè bisogna far parlare una persona, in questo caso un politico, in maniera autentica. Quindi immagino che si debba quasi vivere anche a stretto contatto per capire, per essere autentici, per non essere il ventriloquo, diciamo, ecco, del politico. Bisogna ricordarsi che non si parla. Io non parlo come Ugo Riccarello, come Claudio Novelli, ma parlo perché la firma è, le idee, i concetti sono quelli della responsabilità politica e culturale, quella del sindaco. Noi prestiamo, se vogliamo essere così molto sintetici, un aiuto, come dire, proprio materiale, perché un sindaco di una città come Roma, come molti altri politici ad altri livelli, ha, non so, quantità, 10, 20, 30 cose che deve scrivere ogni giorno e materialmente non potrebbe. Tenuto conto anche la corrispondenza, le lettere. Forse, e così concludiamo, essere stato il ghostwriter di Veltroni pensa che possa aver aiutato l'essere stato il ghostwriter di un uomo così potente a vincere lo Strega? Io penso che più che Veltroni, essere sinceri, sapendo come funziona lo Strega, io devo ringraziare la Mondadori, che è una grande casa editrice. Quindi la famiglia Berlusconi. Mondadori e Mondadori, una grande casa editrice. Certo. Concludo brevemente con un'ultima domanda, ma da ghostwriter di Veltroni e dei suoi discorsi, delle riflessioni, che responsabilità c'è nella sconfitta poi politica? Beh, credo che una parte, anche se molto minore, perché ripeto, le decisioni sono prese da lui, che è il responsabile, però qua io credo che quando si gioca in squadra, in qualche modo si, non so, è come una squadra di calcio, anche chi porta l'acqua, chi... Voi siete i preparatori, forse? I preparatori atletici, forse? Beh, diciamo che siamo uno degli elementi, eravamo uno degli elementi di uno staff che ruota attorno a chi poi prende le decisioni. Ci dia una percentuale di responsabilità. Tra lei e Novelli, insomma, siete in due. Lei quanta se ne prende? Direi un 1%. Beh, la ringraziamo per la sincerità e l'immodestia. Grazie a Ugo Riccarelli per essere stato con noi. Grazie. E insomma, noi non vogliamo andare a caccia di fantasmi, ma tra poco ne intercetteremo uno, niente male. Siamo in collegamento telefonico con un politico che è uno scrittore, Giancarlo Lenner, deputato del PDL, che ha fatto ghostwriter per un libro molto particolare. Buongiorno Lenner. Buongiorno. E insomma, ci racconti, prima poi di produrre saggi, romanzi, in questi ultimi anni anche lei ha fatto il ghostwriter quando era giovane, ci racconti questa esperienza? Sì, ho lavorato molto per gli altri, che fra l'altro è un'esperienza, diciamo, che ha due facce, come Giano, insomma. C'è una faccia buona perché tutto sommato poi insegna a lavorare bene, perché c'è un committente che andrà poi a controllare e eventualmente a condannare pure ad apprezzare. Ma anche un po' di frustrazione forse. E pensi. Poi c'è invece l'amarezza, perché è come vendere un figlio, insomma, no? Ma essendo purtroppo un giovane povero, questo succede ai giovani poveri, almeno un tempo accadeva ai giovani poveri, insomma, no? Infatti i ghostwriter si chiamavano negri un tempo, forse lei si sentiva più negro o un ghostwriter? Negro ai tempi, poi fra l'altro si usava il termine negro. Che anni sono quando lei ha fatto il negro? Sono anni 60-70. E ha scritto, diciamo, sorvoliamo sull'attività, immagino, forse discorsi per i politici, sicuramente lei poi è entrato in politica, ne avrà anche fatti. Sì, ma quello ho continuato a farlo anche dopo, a volte. Qualche politico, anche possiamo dirlo, qualche nome, tanto per i politici non è un problema aver avuto una penna. Qualche volta ho dato alcuni spunti, specialmente diciamo in tema di giustizia, anche a Silvio Berlusconi, Craxi. Quindi discorsi importanti, temi caldi. Ma ci racconti questa esperienza invece da negro per un romanzo, se non sbaglio. Lei è anche stato autore. Questa è una condanna che hanno tutti i giovani poveri. Mi cimento in un romanzo fortunato che poi vinse un premio molto importante. Non posso però andare oltre. Ma lei si cimenta nel senso che lei l'ha scritto? Sì, certo. Quindi, ovviamente noi non diciamo il nome. Non diciamo il nome, ma anche il premio, perché poi sarebbe facilmente... Si premiano i libri, però, quindi il premio non... Però ecco, quello è stato probabilmente il figlio che più mi ha addolorato. Che genere di, almeno per dare qualche elemento ai nostri ascoltatori, che genere di romanzo era? Un romanzo storico, un romanzo d'amore, un romanzo d'avventura? Diciamo che è un romanzo storico-lirico. Storico-lirico. Ecco, tra l'altro, e questa è una promessa, è un impegno che ho preso con me stesso. Rivelerà prima o poi il titolo di questo romanzo. No, ancora meglio. Il mio ultimo libro, io vorrei che fosse per l'appunto un romanzo. Io che ho scritto tanti saggi, ho scritto 25, sono un vecchio scrittore, insomma. Vorrei chiudere non con un saggio, ma col mio romanzo firmato con mio nome. Ah, quindi ripubblicare quel romanzo col suo nome? No, c'è un altro, però a quel punto si accorgeranno tutti, credo. Comunque, per tranquillizzare i segretari dei grandi premi, non stiamo parlando dello Strego, del Campiello, del Bagutta, no? No comment. Ok. Quindi si tence dentro un no comment. Noi la ringraziamo per essere stata a questo gioco doloroso e attendiamo questo romanzo con la sua firma. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. E allora, dopo quello che abbiamo letto, quest'anno il premio non lo dovremmo nemmeno assegnare. Bravissimo, già. Così l'azienda autonoma di Piuggi ci dà del servito tutti quanti. Figuratevi che per la sera della premiazione hanno invitato anche la Callas. Ma invitino chi vogliono. Noi, se permettete, dobbiamo solamente trovare un buon libro, se c'è. E se non c'è, tanto peggio per le serate di gala. Serate di Callas, vorrei dire. Andiamo, ragazzi, cerchiamo almeno di fare una rosa di papabili. Ma sì, facciamo sta rosa. Elisa? Ma non la disturbate. Lei sta cercando l'optimum. Sta per trovare casualmente il capolavoro. Vedrete se mi sbaglio. Sì, sì. Credo proprio che questa volta sentiremo il discorso dell'Eureka. Non è vero, Elisa? E quindi, no comment. Se ha vinto il premio Strega, se ha vinto il premio Campiello, il Bagutta, chissà che qualcuno stia tremando dall'alto del suo premio ritirato con un libro scritto dall'onorevole Nenner. Quindi i politici, per ora abbiamo capito che si avvalgono degli scrittori, e anche gli scrittori di successo si avvalgono di scrittori negri. Il mercato continua ad essere florido. Ghostwriter con esperienza offresi per stesura testi conferenze, discorsi per campagne elettorali, biglietti di auguri, lettere di raccomandazione, articoli di giornale, racconti e romanzi. Pagamento in contanti, massima riservatezza. Time out. Quello non c'è mai, e poi guardo un giorno o l'altro a quello ci do una laurea che lo faccio partecipare alla sua autopsia, porchi il mondo c'ho sotto i piedi, perché io so feroce, no, tu chiedi a me se so feroce. Sei feroce? Porchi il mondo, so 20 puntate che te lo dico, so feroce, ancora non l'hai capito, porchi il mondo c'ho sotto i piedi. Il fu Vito Catozzo, il personaggio non c'è più, invece l'attore che lo interpretava è vivo, vegeto e spesso si arrabbia, e Giorgio Faletti, che da scrittore, da autore di grandi bestseller, quando gli è stata rivolta l'accusa di avere un ghostwriter che scriveva per lui i libri, in particolare Io sono Dio, pieno di traduzioni dall'americano, si è imbufalito, ha cacciato fuori la pistola, l'ha puntata contro chi lo criticava e ha messo la pistola sul tavolo, andiamo da un notaio, mettiamo una somma, il notaio mi guarda mentre scrivo, se io il libro lo scrivo da da solo, quella somma la prendo io. Se invece arriva un altro che mi dà una mano a scriverlo, la prende chi mi criticava. E d'altronde si sa, i comici hanno uno scarso senso dell'ironia. Invece ci sono autori che non si fanno problemi a raccontare che hanno fatto i ghostwriter prima di diventare poi romanzieri e autori di libri, raccolte, romanzi e reportage. Siamo in linea con uno di loro, Andrea Di Consoli. Buongiorno Di Consoli. Buongiorno a lei. Senta, ma se le dicessero che lei è un ghostwriter, lei la prenderebbe a male? Ma mi è capitato una volta. Allora, uno mi ha dato un manoscritto da leggere. Io ho letto le prime due pagine, era un romanzo orribile, così l'ho buttato. E dopo qualche tempo, uscito il mio romanzo La curva della notte, lui mi ha scritto un'email dicendomi: Di Consoli, lei ha copiato ogni pagina del mio romanzo, quello che le avevo dato corrisponde esattamente alla curva della notte, per cui... E io non sapevo proprio come rispondergli a questo, cioè io rimasi allibito, insomma, quindi sì, ci rimarrei male perché francamente uno affida veramente a questi libri che scrive una parte della propria anima, insomma, sentirsi accusato di plagio, di avere un ghostwriter è infamante. Invece lei l'ha fatto però forse in giovane età, quando forse serve anche un po' raggranellare qualche soldo. Ci racconti cosa ha fatto? Ovviamente non diciamo né la persona né magari la testata per motivi ovvi di riservatezza. Accadde questo, che avevo forse 23-24 anni, facevo l'università, ero in quanto emigrato dalla Lucania a Roma squattrinatissimo, non riuscivo neanche a pagare l'affitto, e scrivevo gli articoli, ma non solo gli articoli, però devo dire gli articoli, un grande giornalista di un grande quotidiano, e facevo soprattutto recensione, ma gli scrivevo anche i discorsi, perché poi lui andava in giro per l'Italia a presentare i libri, ma addirittura gli facevo tutte le schede di valutazione dei premi, perché lui era un giurato di tanti premi, e quindi mi arrivavano continuamente a casa libri, manoscritti che io dovevo leggere e valutare, e devo dire questo, che quanto prendeva? Prendevo 80.000 lire ad articolo, insomma, lui mi faceva questi assegni dopo qualche mese, ma ne facevo forse 4-5 al mese di queste recensioni, e quindi guadagnavo un bel gruzzoletto di soldi, insomma. La cosa che mi ha fatto soffrire qualche mese fa è stata questa: ho incontrato uno di questi scrittori che recensii, non con il mio nome, con il nome di questo critico. E gli dissi, feci un lapsus terribile, gli dissi: ti ricordi la mia recensione che uscì su quel giornale, eccetera? E lui mi disse: no, io non mi ricordo che tu abbia mai recensito un mio libro. E a quel punto sono stato costretto a confessare che in realtà quella recensione non era effettivamente firmata da me, ma era scritta da me. Insomma, perché appunto era il ghostwriter di questo scrittore. No, devo dire che crea anche un po' di rancore questo rapporto, perché vedi che... è frustrante, che più... sicuramente frustrante, anche sul piano sociale. Uno non esiste, è un fantasma, è un invisibile, come un clandestino, è un sans-papier. È vero, crea frustrazione perché tu dici: ma come? Potrei scrivere su un giornale, questo non ha più voglia di scrivere, non gliene frega più nulla dei libri, è uno annoiato, uno che pensa soltanto a prendere soldi in giro, e tu che invece avresti voglia di farlo non lo puoi fare perché le strade sono chiuse. E poi è riuscito a pubblicare, però l'ha aiutata questa persona poi a trovare un editore, a emergere, o invece no? Ha dovuto farlo invece da solo. No. Devo dire la verità, ho anche sfiorato nella mia vita luoghi dove questa persona lavora. E ci sono anche entrato per un periodo, eccetera, ma mai grazie a questa persona. Cioè, questa persona in realtà non mi ha aiutato. L'ha pagato con un po' di soldi e molta ingratitudine. Le faccio una domanda secca: lei per 10 milioni di euro scriverebbe la biografia di Berlusconi? Assolutamente no, ma io devo dire mi mantengo anche su cifre molto più basse. Quanto scriverebbe una biografia di Berlusconi? No, devo dire che a me 40-50 mila euro mi basterebbero, firmerei oggi stesso, insomma. No, tra l'altro era un mio vecchio sogno quello di seguirlo per qualche settimana. Allora lanciamolo, se il presidente ci ascolta, lei per una cifra molto ragionevole si offre. La ringraziamo per essere stata con noi e grazie, si mette al lavoro. E insomma, sentite come cantano le macchine da scrivere, adesso sono le tastiere dei computer. Ma sentiamo un altro scrittore, oggi affermato, che è stato ghostwriter, Nicola La Gioia. Buongiorno La Gioia. Buongiorno. Abbiamo sentito Di Consoli, Andrea Di Consoli ci raccontava che scriveva recensioni per un critico importante, schede di valutazioni per i premi letterari. E lei cosa ha scritto da ghostwriter? Guardi, io ho fatto il ghostwriter nel periodo in cui, come dire, nel mio... periodo iniziale di lavoro, che era un non lavoro, c'era uno stage presso una casa editrice, quindi non venivo pagato durante lo stage, quindi dovevo arrabattarlo in qualche altro modo. Mi capitò di conoscere una signora che lavorava a un TG regionale e che aveva bisogno di qualcuno che le scrivesse i pezzi che poi lei doveva appunto raccontare, doveva leggere, ecco, durante questo TG. Secondo la sua opinione, insomma, lei non aveva tempo per scrivere questi pezzi, poi mi aveva dato un pezzo, diciamo così, modello, io là mi resi conto che non, leggendolo, che non sapeva scrivere proprio per niente. E allora che cosa accadeva? Che lei mi mollava queste registrazioni, tipo, che ne so, andava a un convegno di medici, oppure andava a una conferenza stampa di un dell'allenatore di una squadra di calcio, mi mollava, io dovevo sbobinare tutto quanto, dovevo poi mettere in un italiano semplice, leggibile il tutto. Il problema è che andando lì direttamente sarebbe stato molto più facile, ma perché avevi appunto gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, la possibilità di interagire e così via, avendo soltanto invece la sbobinatura, neanche la sbobinatura. Lei ascoltava le vite degli altri. Sì, sì, esattamente, ascoltavo le vite degli altri. Quanto stiamo facendo anche un tariffario, cerchiamo un po' di capire, quanto prendeva per questi articoli? Allora, all'epoca c'era ancora la lira, perché poteva essere il 98-99, e io prendevo 100.000 lire, 120.000 lire a pezzo, che era, insomma, se riuscivo a farne appunto 4 o 5 in un mese... L'affitto si ammortizzava. Sì, perché costava molto di meno a Roma all'epoca, pre-giubileo. Quanto tempo ci impiegava per compilare questi... Oddio, immagino sbobinare e poi scrivere. No, complessivamente quanto ci impiegava? Diciamo 4-5 giorni, che però erano 4-5 notti, perché io poi al mattino andavo a fare questo stage in questa casa editrice. Lei che lavora adesso anche alla Minimum Fax, nell'editoria, ci arrivano anche delle persone che scrivono dei romanzi e le offrono, se qualcuno vuole poi pubblicare col suo nome, ci sono... degli scrittori ghostwriter che offrono il loro romanzo ad aspiranti autori anche che non sanno scrivere romanzi? No, purtroppo accade il contrario, cioè accade che ci sono autori in cerca di ghostwriter, ti mandano il romanzo, sì, e mette l'allegato in cui dice: guardi, io so bene che questo romanzo, insomma, zoppica un po' tutte le parti, non è un granché, però se lei me lo riscrive e me lo mette a posto e io le do un po' di soldi, poi magari diventa pubblicabile. E quindi, insomma, il lavoro non sarebbero degli, in realtà non sono degli aspiranti scrittori, sono degli aspiranti uomini pubblicati. Questo benissimo, è, ringraziamo Nicola Gioia che ci ha raccontato quando bisognava vivere con poche lire al mese. Se potessi avere 300.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certa di trovare tutta la felicità. Villa Belvedere. Insomma, 300.000 euro al mese forse sono una cifra che potrebbe anche giustificare un romanzo su commissione, un gran bel romanzo. Ci vuole un grande autore in gamba come Ottavio Cappellani. Ottavio Cappellani, buongiorno. Lei ha mai scritto un romanzo su commissione senza poi pubblicare il suo nome? Sì, è accaduto negli anni 90. Un po' più complessa la situazione, c'era tutta una, come dire, una manovra editoriale, perché una casa editrice aveva perso un autore importante, si era quindi, insomma, cercato di prendere un altro autore altrettanto importante che ha accettato data la cifra offerta, ma in quel momento per altri impegni non poteva scrivere il romanzo, e così, insomma, quella che solitamente si dice attività di editing è stata molto più pesante. Quindi essenzialmente è uscito con un altro nome, che non faremo, un romanzo scritto da lei. Quanto le hanno dato? Quanto le hanno corrisposto? All'epoca presi 4 milioni dell'epoca, più dei rimborsi spesa per i vari viaggi in cui mi incontravo con l'autore. All'inizio doveva essere, come dire, l'autore che, avendo poco tempo, mandava... Diciamo, dicono tutti così, che hanno poco tempo. Esatto, mandava degli appunti e questi appunti dovevano sistemarsi. Poi a poco è finito che ero io che mandavo gli appunti all'autore e lui faceva l'editing. Gli mancava il talento, quindi, oltre no, che il no, che l'autore è molto molto bravo, e quindi no, fu veramente una mancanza di tempo. Sì, assolutamente. È indulgente, non sembra avere quel rancore che a volte uno può invece avere per... Ma No, il rancore no, soprattutto perché è fatto in giovane età, ma come dire, questa attività più o meno pesante è un'attività abbastanza comune e ordinaria nelle case editrici. Poi certo, a secondo il temperamento di ognuno, si può scegliere se, come dire, proseguire su questa professione, perché poi la professione dell'editing a volte sfiora quella del ghostwriting, certo. Oppure rendersi conto che è una cosa che può... O emergere, restare sommerso oppure emergere, come lei esatto, poi ha fatto. Oppure pensare che forse è meglio usare il proprio nome quando si ha un diverso tipo di temperamento. Benissimo, come d'altronde lei appunto ha fatto, e sembra molto pacificato con questa esperienza. La ringraziamo per essere stato con noi, Ottavio Cappellani. Grazie a voi. E quindi, insomma, vedete, c'è chi ha più rancore, chi ce n'ha meno, chi scrive romanzi lirici d'amore e in fondo rinverdisce quel lavoro che faceva Cyrano de Bergerac. Venite pure avanti, voi, con il naso corto, signori imbellettati, io qui non mi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. E allora il nostro time out sta finendo. Siamo partiti da uno slogan che ha fatto il giro del mondo, ha creato un marchio, Yes We Can, di Obama, no, di un giovane ghostwriter. Abbiamo scoperto che ci sono molti scrittori che si prestano a scrivere i discorsi dei politici e persino dei giovani poeti spiantati che si mettono a scrivere romanzi di successo. Questo lo si fa essenzialmente per soldi, money, è solo business. C'è qualcuno che ci resta male, che lo considera come un figlio che viene allevato da altri, e invece qualcuno che semplicemente ha trovato un modo per imparare a scrivere e poter poi emergere anche come scrittore di successo. Però la schiavitù di quelli che un tempo si chiamavano i negri e oggi sono i ghostwriter certamente non è finita. Io sono Luca Mastrantonio, ringrazio Alessandro Chiappini in regia e vi ricordo che Time Out è l'appuntamento dell'estate, del sabato a domenica mattina alle 9:30, per prenderci una pausa e capire le regole del gioco. Grazie.